Sofia, Sofia, Sofia, mio sogno di chi te lo suie. Sofia, io mo te ma chéri, io già li se banchila, na lo banchina io canta mo te ma te io si, io so ma vaso, na moni si io zela.